se tutte le donne fossero sulla luna, nessuno resisterebbe a restar qua giù. Se milioni di fanciulle, bionde, brune, tutte belle, ci dicessero venite, volate, salite, correte quassù. Si sa che la donna all'uomo dà tanti guai, ma senza le donne l'uomo non può campar. E ognuno volerebbe per farsi la sposina, se tutte le donne fossero sulla luna. Donna l'uomo dà tanti guai, ma senza la donna l'uomo non può campar. E ognuno volerebbe per farsi la sposina, se tutte le donne fossero sulla luna. Luna, luna.